Non cercarmi, stacco il telefono, stanotte è inutile, sono al bar. Molti spiccioli spendo con il jukebox per ascoltare un vecchio blues che tu non vuoi sentire, ma mi ricorda la ragazza che un giorno mi ha baciato, perciò sono al bar, il nostro vecchio bar, e tu se vuoi lo puoi trovare in un vecchio bar, che si può fare, tu lo sai, si può ascoltare un jukebox ed anche bere, bere se mi lasci fare. Che un giorno mi ha baciato, perciò sono al bar, il nostro vecchio bar, e tu se vuoi lo puoi trovare.